prigioniero non ha libertà. La ricerca forse la trova, con la musica si libera. Sfoga la rabbia in frecce che furono ignavia, impostori falsi e pochi dubbi. Salto le barriere, odio lo stato del premier Leca. Se lo trovi nelle strade finito sofferente, si sente settico, ma settico, ma settico esserlo. Ho ricazzato, brucia la prigione per starceleri, forse la trova e cola libera. Musica libera, musica libera, musica libera, musica libera, musica libera, musica libera. Musica libera, musica libera, musica libera, musica libera, musica libera.